Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Emanuela Piovano di Kitchen Film per presentare L'amante russo di Daniela Ardida al cinema da giovedì 17 giugno 2021. Ben trovata. Ben trovati voi. Che racconto è questo? È il racconto di una dipendenza peraltro negata, perché la protagonista vorrebbe non avere questa dipendenza, fa di tutto per non averlo, però in realtà è completamente trascinata da questa passione erotica, ma anche amorosa, perché comunque il film non si pronuncia da questo punto di vista, resta sempre in bilico su un possibile amore, innamoramismo, invece un possibile disamoramento e puramente invece un rapporto fisico. Quindi è un film di una ricerca interiore e di una ricerca anche dei propri limiti. È una donna che si interroga su quanto i propri limiti possano essere portati in avanti. Mi dicevi che rispetto al libro di riferimento da cui è stato tratto, ti ha fatto un'impressione ben diversa la pellicola? Sì, perché il libro che io avevo già letto e che era un libro importante, perché è un libro di questa scrittrice francese Annie Ernaux, una scrittrice importante anche per il suo impegno politico, insomma è una tipica scrittrice engagée, quindi non è una che scrive favolette, ed è una persona che io stimo moltissimo, e però questo libro mi aveva molto inquietato, perché comunque essendo la ricerca proprio capillare delle proprie reazioni a questa passione che a un certo punto della propria vita ha provato, però è un libro molto claustrofobico, molto, molto ossessivo, no? Questi incontri continui con questo uomo più giovane che poi in realtà ha una propria vita, che non riescono a comunicare perché lui è russo e lei è francese, lui è un esponente dell'ambasciata, un bellissimo uomo estremamente affascinante che però anche a sua volta viene preso da questo vortice, però di lui sappiamo poco, perché noi sappiamo tutto invece della ricerca che fa la scrittrice, e quindi non mi aveva particolarmente catturato il libro. Invece il film e soprattutto la mano di questa regista, che io conoscevo da tempo perché avevo già distribuito il suo primo film, che era un'opera prima sorprendente, che si chiamava Dans les champs de bataille, nei campi di battaglia. All'epoca non l'avevamo doppiato perché era un film molto etnografico e tutto in soggettiva di questa bambina che si aggira per la guerra del Libano, che si aggira per questi genitori ancien regime, no? E quindi questo sguardo di questa bambina molto inedito, molto interessante, e paradossalmente io questo sguardo l'ho ritrovato in questo film, che è il suo quarto film. Un'autrice molto importante a livello internazionale che meriterebbe anche forse un'attenzione maggiore. In Italia è stata premiata dal Festival dei Popoli, che è un importantissimo festival, però dedicato in genere appunto all'etnografia, al documentario. Invece lei comunque si occupa di cinema narrativo. E quindi ho ritrovato questo sguardo di bambina paradossale in un film invece molto adulto, vietato ai 14 anni, cioè un film sicuramente per adulti, ma in realtà lei attraverso due escamotage molto semplici, che sono la musica e la scenografia. Sono tutte musiche di repertorio. Lei ha detto durante il dibattito con Nanni Moretti, tra virgolette, io non amo nel mio cinema spalmare la musica come un vestito, anche se magari un domani potrei anche farlo, fino adesso io uso sempre la musica come un personaggio, e quindi mi piace attingere proprio a autori, c'è cioè Leonard Cohen, c'è perfino una cover di Bob Dylan, ci sono veramente un repertorio di canzoni stupende che fanno da contrappunto a questa claustrofobia di questo rapporto. E quindi questo è un elemento che dà un respiro pazzesco al film. L'altro elemento incredibile che assolutamente non esiste nel libro, e il fatto che lei, una delle pareti della stanza in cui loro si incontrano, che è la casa di lei peraltro, sono delle pareti trasparenti e quindi sono tutto il fluire delle stagioni, nevica, poi fa il sole. E un'altra scelta pazzesca, lei ha scelto di filmare tutti i rapporti sessuali completamente in piena luce, anche qua in controtendenza della retorica che vuole l'atmosfera. E qui proprio come se fosse close up, no? Su questi corpi che si incontrano, su questa donna che si chiede ma lo amo, ma non lo amo, ma lo aspetto con i telefoni, che perde la testa perché poi non riesce più a occuparsi del figlio, eccetera. E quindi questi due elementi, la natura che rompe in queste stanze, la musica come fosse una colonna sonora autonoma, rendono in realtà il film anche leggero, anche piacevole, anche estremamente poetico, ecco. Poi ci sono anche dei pezzi proprio di riprese, perché lei poi va a Mosca per capire meglio lui dove abiti, quindi sono tutte queste persone che passano e lei che è chiusa in se stessa in questa sua ossessione. Insomma, è un film di autore molto molto bello. Che uscita sarà? Un po' emergenziale, avrà anche un'uscita in piattaforma su Cinekit. Abbiamo deciso di far uscire, e come fossimo una major, ci siamo montati la testa di far uscire questi due film che Antoine Dalle-Sevigny, Io, Lei, Lui e l'Asino, e Daniel Arbid, Passion Sempre, ovvero L'amante russo, insieme, perché abbiamo detto ma forse è un momento di grande anarchia, di grande rovesciamento delle parti, di grande pasticcio, noi ci gettiamo nella mischia. E poi perché volevamo proprio sottolineare una continuità tra questi due film. È la prima volta che al concorso di Cannes l'anno scorso, oltre ad essere fatto online e quindi con delle date diverse, insomma, è stata la prima volta che parecchie donne sono state selezionate nella selezione speciale. E per esempio sia Daniela Arbid che Caroline Vignale erano due di queste, segnate tra l'altro da una forte femminilità, perché sono tutti due film dove la protagonista è una donna ed è l'eroina a tutti gli effetti, che prende in mano la sua vita, una come Don Quixote e questa come Freud, non lo so. E quindi mi sembrava anche importante dare il senso di una continuità, come fossero due capitoli di una stessa storia. E per questo che li vivo un po' come il sequel l'uno dell'altro. Naturalmente continua a uscire anche l'altra. La cosa bellissima è che Nanni Moretti ha deciso di programmarli al Sacher, per noi è come aver vinto un premio, però esce anche all'Anteo di Milano, esce al Cinema Massimo di Torino, esce a Bologna al Modernissimo, stiamo prendendo parecchie sale in Lombardia, anche in Puglia, insomma è un po' a macchia di leopardo. È stato difficile fare una programmazione, perché già per noi è sempre molto difficile, ma in particolar modo adesso, perché come sapete non si sa quando aprono, quando chiudono, quindi da questa la scelta condivisa con le sale di dare comunque una possibilità anche sulla piattaforma allo stesso prezzo del biglietto della sala, perché non vogliamo far concorrenza a nessuno e riteniamo che il biglietto sia giusto, 7 euro, poi certamente privilegeremo la sala, però laddove non c'è io dico andate a vedere lo stesso questi film, che sono veramente molto molto interessanti. Il film L'amante russo di Daniel Arbid al cinema da giovedì 17 giugno 2021. Un saluto e un ringraziamento ad Emanuela Piovano di Kitchen Film che lo distribuisce. Un in bocca al lupo e a presto. Viva il lupo e grazie, grazie Federico. Con Alessandro Giacobbe di Academy 2 per presentare il film La felicità degli altri di Daniel Cohen al cinema da giovedì 24 giugno 2021 e poi la seconda edizione del Festival Genova Reloaded di cui Academy 2 è partner a Genova dal 24 giugno al 4 luglio 2021. Alessandro, ben trovato. Grazie, grazie dell'ospitalità e un benvenuto e un saluto a tutti gli ascoltatori. Partiamo dal film. Come sì, lo volentieri presenteresti? È una commedia che aiuta a essere un po' più distesi, di animo sereno in vista delle vacanze estive, ed è anche un motivo per cui abbiamo pensato di proporla al pubblico proprio in questo periodo di vigilia delle vacanze, perché comunque è una commedia divertente che però, un po' come tutte le scelte che contraddistinguono Academy 2, ha una sottolettura abbastanza importante. Anzitutto sottolineerei il cast d'eccezione, perché è un quartetto veramente formidabile: Vincent Cassel, Bérénice Bejo, Florence Foresti e François Damien, che costituiscono queste due coppie di amici di lunga data alle prese con il successo. E il successo che tocca una di loro, Bérénice Bejo, che interpreta Léa, che improvvisamente dice agli amici di star scrivendo un romanzo, e un romanzo che avrà un successo clamoroso, al punto da suscitare però le invidie dell'amica del cuore, che in animo si sentiva scrittrice e che invece non ha nessuna chance di successo. E da lì appunto partono un po' le schermaglie tra questa coppia di amici che da tanto tempo si frequenta e scopre che forse non era un'amicizia vera. Da lì parte il film e le varie situazioni, che però si distinguono tra momenti veramente di hilarità e momenti un po' più emozionanti, proprio causati da questa situazione. Di questo regista cosa sappiamo d'altro? È un regista che è abituato a titoli di questo tipo, nel senso un regista non certo all'altezza dei film d'autore di cui noi siamo abbastanza frequentatori, però diciamo che in questo caso è sceso un po' più nel profondo rispetto a titoli precedenti. Lui aveva fatto ad esempio anni fa un'altra commedia abbastanza comica come Chef, che vedeva il tono della commedia forse un po' più grossolano rispetto a questo La felicità degli altri. All'epoca c'era Jean Reno, che appunto si intrufolava un po' nelle cucine, nella cucina francese, però come dicevo con una comicità forse un po' più popolare rispetto al titolo di cui stiamo parlando. Che tipo di distribuzione sarà? Noi siamo partiti sul finire dell'estate contando di entrare nelle sale di città che ancora sono aperte, e uscirà il film una cinquantina di copie nelle principali città italiane, ma è anche un film sul quale puntiamo per una diffusione estiva nelle arene, nelle cinema all'aperto, che probabilmente saranno numerose come le sono state lo scorso anno nelle varie località anche turistiche. Quindi proprio per la leggerezza del film contribuirà ad essere programmato anche in queste situazioni. Passando al festival, è la seconda edizione, raccontaci un po'. La seconda edizione di Genova Reloaded, che si terrà a Genova appunto dal 24 giugno al 4 luglio, con la direzione artistica di Giorgio Viaro, così come lo era stato lo scorso anno, è un'edizione leggermente più lunga, avremo 11 serate, ospiti importanti. Iniziamo il 24 di giugno ospitando Federico Zampaglione, fresco esordiente con Morrison, che è uscito nelle sale proprio poche settimane fa, e al tempo stesso, nella stessa serata, ospitiamo anche Barbara Bogulova, che presenta un evento speciale, Paolo e Francesca, un documentario di Federico Caponera, nel quale appunto lei ha partecipato. Questa è la giornata di apertura. Poi abbiamo altri illustri ospiti, avremo Francesco Bruni con Cosa sarà, avremo Palazzo di Giustizia con ospite Daphne Scoccia, la protagonista, avremo poi due serate con Zero Calcare, nelle quali presenteremo anche un'anteprima, Quo Vadis Aida, che sarà distribuito da Academy Toon in collaborazione con Lucky Red, uno dei film più applauditi all'ultima mostra del cinema di Venezia. Non è difficile citare tutti gli ospiti, ma in particolare mi piace ricordare ci sarà Mancini, Mauro Mancini col suo film Non odiare, ci sarà Giuseppe Piccioni, ci sarà Maura Del Pero con Maternal, ci sarà il protagonista genovese del Cattivo poeta Francesco Patanè, e avremo ancora poi Davide Ferrario, che uscirà il 1 luglio col suo Boys, e noi l'avremo ospite proprio il 2 luglio qui a Genova. Poi ancora la lettura di Caro Diario da parte di Nanni Moretti sabato 3 luglio, per poi chiudere la rassegna il 4 luglio con un premio speciale a Pupi Avati, presenteremo Lei mi parla ancora, e un'anteprima nazionale di Un anno con Salinger, che è un altro film di Academy Toon che sarà poi presentato nelle sale questo prossimo autunno. Ci dai tutti i riferimenti internet per seguire la programmazione? Il sito è www.genovareloaded.it, quindi su questo sito c'è il dettaglio di tutti gli appuntamenti. La felicità degli altri di Daniel Cohen al cinema da giovedì 24 giugno 2021 e la seconda edizione del Festival Genova Reloaded dal 24 giugno al 4 luglio 2021. Un saluto e un ringraziamento ad Alessandro Giacobbe di Academy Two. Un abbraccio. Grazie. In bocca al lupo e a presto. Grazie mille, un saluto a tutti. A presto. Con Francesca Mazzoleni, regista del documentario Punta Sacra in tour. Francesca, ben trovata. Ciao, grazie. Raccontiamolo a chi ci sta ascoltando, di cosa si tratta? Punta Sacra è un documentario che adesso appunto è in pieno tour per le sale cinematografiche e racconta la storia dell'idroscalo di Ostia, quindi di questo piccolo lembo di terra che sta tra il fiume Tevere e il mare, proprio la nostra foce, e parla di una lotta, di una resistenza di questa comunità che vive lì dagli anni 60 praticamente con una minaccia di sgombero continua sulla testa, e ho vissuto con loro negli ultimi anni, diciamo, e quindi questo documentario racconta più che altro la quotidianità e anche la bellezza che ho trovato tra le persone della comunità, quindi capovolge un pochettino uno stereotipo e un pregiudizio, diciamo, che c'era sull'idroscalo di Ostia ormai da tanti anni. Come è nato il progetto? Circa 8 anni fa, quando ho messo piede all'idroscalo per la prima volta, ho conosciuto alcuni degli abitanti, tra cui la famiglia protagonista, che è una famiglia di donne, la famiglia di Franca Vannini, che un pochino la chiamano l'Anna Magnani dell'idroscalo, e parlando con lei, che è una donna fantastica, coraggiosa e piena di forza, ha detto sempre: certo che qua ci girano di tutto, ci girano le serie, ci girano i film, perché è un luogo molto scenografico, molto bello, però alla fine nessuno racconta la nostra storia e la vita vera di chi vive qui. Quindi è nato un pochino con una volontà condivisa di raccontare una storia dal di dentro, è nata insieme alle persone, quindi pian piano, dopo anni di conoscenza, perché poi ho continuato a frequentarli per molti anni, 2 anni e mezzo fa ho deciso di intraprendere questo progetto e quindi di mettere su proprio un documentario, una piccola squadra con la quale ci siamo resi invisibili per i mesi di ripresa e filmando di casa in casa e vivendo con gli abitanti, fino a poi appunto, dopo 6 lunghi mesi di montaggio, aver dato vita a quello che all'inizio non credevo potesse diventare, diciamo, un film che poi parlasse un po' in tutto il mondo, invece per fortuna ha avuto una bella risonanza non solo a Roma, di questo sono felice. Per chi non conoscesse la realtà dell'idroscalo, che agglomerato è? Io la chiamo l'ultima borgata autocostruita di Roma, perché si parla tanto di abusivismo. Noi, da quando abbiamo iniziato a fare questo lavoro, anche con le persone che mi hanno seguito, con antropologhi, studiosi, abbiamo iniziato a lavorare molto sulle parole. E usare il termine abusivismo dopo 60 anni di vita in un luogo, radici e identità costruite in uno stesso spazio, ci sembrava un po' inutile e anche sbagliato. Quindi la chiamiamo borgata perché la radice culturale è un po' quella delle nostre borgate, autocostruita perché la forma di autocostruzione, diciamo, non solo a Roma è ben nota, e molti quartieri, tra cui anche il Pigneto dove vivo, sono nati così, con case autocostruite che poi negli anni hanno avuto i condoni. Quindi oggi è questo, è un villaggio di 500 famiglie che negli anni 60 si sono costruiti per necessità le proprie case e per anni hanno continuato a vivere lì. Adesso vi vivono più di 1000 persone. La cosa bella di questa comunità è la coesione, cioè il fatto proprio che è una comunità. E la cosa che mi ha colpito di più e che emerge forse da questo lavoro è il significato del vivere in comunità, che forse ci siamo un po' dimenticati nelle altre zone, dove almeno nel mio condominio non ci si saluta nemmeno. È bello vedere come, diciamo, in dei luoghi che vengono descritti in modo così negativo, invece c'è una forma di convivialità e di aiuto reciproco che io ho fatto fatica a ritrovare in altri luoghi. Quindi è una comunità molto molto coesa, che è riuscita a rispondere anche a una ferita che il luogo ha vissuto in una maniera molto vitale, perché ricordiamo nel 2010 questo luogo ha visto 35 delle sue case abbattute in una notte per una scelta del sindaco di Alemanno. Nel 2010 c'è stata, diciamo, questa volontà di riqualificare, per così dire, la gran parte dell'idroscalo, quando in realtà poi quello che è rimasto oggi è uno spazio vuoto, ecco. Non si è guardato molto al futuro e c'è ancora questa paura che il resto delle case vivano lo stesso destino, lo stesso futuro. Io mi auguro, il motivo per cui ho fatto anche questo film, è che da oggi ci sia un tipo di ascolto diverso, che quando vengono fatte delle scelte sulla testa delle persone si fa, diciamo, con una volontà di ascolto e di confronto e non con un'imposizione dall'alto. Quello sarebbe un peccato, anche perché poi la zona è bellissima e quindi con una riqualificazione, diciamo, potrebbe diventare un po' un villaggio di tutti e anche con più connesso con Ostia e più vivibile, come era un tempo, ecco, prima della costruzione del porto. Era un luogo in cui ci si andava molto spesso, continuando il lungomare con una passeggiata. Invece oggi purtroppo è una situazione di isolamento, ma purtroppo per la conformità che ha preso tutta l'area. Che circuitazione stai dando a questo tuo lavoro? Noi abbiamo aspettato un anno per poter uscire nelle sale, perché il film ha avuto il battesimo a Vision Durel, che è un festival molto bello di documentari che si svolge a Nyon, dove ha vinto il miglior film, il miglior documentario. E questo è successo il 25 aprile, giornata storica per molti punti di vista. Abbiamo vinto questo festival che ci ha dato un battesimo e siamo stati felicissimi. Da lì ha circolato un po' ovunque, però purtroppo a causa della pandemia, sempre attraverso le versioni online e non fisiche dei festival. Adesso che ci sono state le riaperture e abbiamo aspettato appunto prima di metterlo in piattaforma proprio per poter avere questo confronto con il pubblico, quindi avremo tantissime proiezioni, abbiamo proiezioni prossimamente a Pescara, ad Ancona, a Torino, a Reggio Emilia e un po' in tutta Italia, con delle date molto precise perché stiamo accompagnando il film, e sul nostro sito, sui nostri social ogni giorno aggiorniamo i nostri appuntamenti, quindi siamo sul pezzo da questo punto di vista, siamo molto social perché la situazione ci porta, ecco, a ogni giorno ad aggiornare le date, ad aggiornare gli incontri, però ci saranno tante proiezioni durante tutta l'estate e questo ci tenevamo moltissimo perché insomma l'incontro col pubblico è qualcosa per noi di fondamentale, soprattutto per questo tipo di lavoro. Punta Sacra, il documentario in tour, un saluto e un ringraziamento alla regista Francesca Mazzoleti, un in bocca al lupo e a presto! Grazie, vi ringrazio, buona visione. Grazie mille. Con Federico De Sivo, co-regista del documentario L'amico siriano, a Roma, al Cinema Farnese, venerdì 25 giugno 2021. Ben trovato. Ben trovato, pure a te. Ci racconti un po' di questo progetto? Racconto un po' quello che è questo film e la sua genesi, perché credo che poi faccia tutto parte di un unico discorso, nel senso che il documentario l'abbiamo girato ormai agli inizi, diciamo, della pandemia, era fine febbraio 2020, insieme all'altro co-regista che si chiama anche lui Federico, quindi diciamo questo trittico di Federici oggi. E siamo partiti perché, diciamo, lui aveva questo suo amico, Mohamed, un signore di 45 anni siriano che è bloccato da te da ormai 5 anni. E quindi abbiamo deciso di raccontare quella che era la storia di Mohamed, ma poi in realtà il documentario va a raccontare quello che è il loro rapporto di amicizia tra Federico e Mohamed, perché poi in realtà la nostra regia si è divisa in due, nel senso che Federico era il regista in campo, in qualche modo, che dirigeva anche gli accadimenti per far sì che la storia di Mohamed riuscisse a essere raccontata, ma nel contempo la viveva anche. Io ero il regista, diciamo, dietro la camera e riprendevo quello. Sono stati quei 3 giorni, perché poi il viaggio è durato 3 giorni e abbiamo cercato di raccontare nel miglior modo possibile, nel senso, quello che può essere un rapporto di amicizia così particolare e la storia di un migrante bloccato ad Atene ormai da 5 anni. Nel film c'è anche una seconda parte in cui il loro rapporto continua, ma a distanza, in lockdown, con appunto videochiamate e telefonate per cercare di continuare questo supporto. Ma diciamo che quello che poi il film vuole andare a raccontare è semplicemente le difficoltà di chi da solo prova ad aiutare chi dall'Europa viene un po' abbandonato. Nel complesso, cosa viene fuori dalle immagini? Un racconto che cerca di togliere qualsiasi tipo di narrazione standardizzata o stereotipata di queste tematiche, che rendono un po' appunto le tematiche stesse non reali. E quindi questo tipo di narrazione, che prova a essere il più attaccata possibile alla realtà, prova a far capire una cosa sola, che dietro la parola migrante, che siamo sempre abituati a sentire nei più diversi contesti, dalle televisioni agli eventi, anche alle manifestazioni stesse, comunque si nasconde una persona, un essere umano, ed è la cosa che, diciamo, il film prova attraverso le immagini a raccontare. Raccontiamo una storia umana dietro a una di queste etichette che tanto ormai sentiamo nominare troppo spesso. Tu che impressioni ne hai ricavato da questa vicenda umana? A me è stato un avvenimento che ha cambiato un po' quelle che sono state le mie percezioni, perché con una camera in mano mi sono buttato senza nessun tipo di preparazione o di scrittura prima. Tutto quello che si fa in realtà dietro alla preparazione di un documentario è stato molto istintivo come gesto, e diciamo che sono riuscito attraverso questa esperienza ad avere sempre più concretamente una mia idea riguardo a queste questioni, che sono questioni politiche all'apice di questo vertice, umane purtroppo nella base di questa piramide. Che tipo di circuitazione state pensando? Venerdì è la terza replica che facciamo a Farnese, che ci ha chiesto appunto di ripetere l'esperienza delle prime due proiezioni. Abbiamo già programmato altre due date a Palermo e il nostro obiettivo è quello di farlo girare il più possibile per l'Italia, per poterne anche poi creare dei dibattiti successivi che servano non solo a parlare come al solito e basta, ma che possano, diciamo, aprire anche degli spiragli di pensiero nelle persone che verranno a vedere il documentario e a parlare con noi, per fare il proprio piccolo, la propria parte in questi contesti, perché ognuno può fare la propria parte. Il film comunque dura 52 minuti, 53 minuti, quindi noi siamo iper contenti poi di fare sempre una chiacchierata alla fine. E diciamo che adesso, poi per quanto riguarda, tornando alla domanda, stiamo cercando di chiudere un contratto con un distributore che possa aiutarci a veicolare il film non solo nelle sale, ma anche all'interno di circoli arci, centri sociali o diversi luoghi dove poter appunto istituire poi un dibattito successivamente. Ci lasci a questo proposito tutti i riferimenti internet per i dettagli? Non abbiamo una vera e propria pagina Facebook del film, ma c'è l'evento che in questo momento noi faremo uscire, ci sono sennò i nostri contatti personali, miei e di Federico Annibale, l'altro co-regista, io sono Federico Desivo, all'interno dei quali nelle nostre pagine noi promuoveremo le varie proiezioni. Il documentario L'amico siriano a Roma, al Cinema Farnese, venerdì 25 giugno 2021. Un saluto e un ringraziamento al co-regista Federico Desivo. Un in bocca al lupo e a presto. Grazie Federico, a presto anche a te. Con Massimo Vattani, uno dei curatori della programmazione di Ragazzi di Cinema all'Arena Caffè, all'Istituto Federico Caffè a Roma. Massimo, ben trovato. Ciao Federico, buongiorno a tutti e a chi ci ascolta. Ci racconti di questa rassegna? Diciamo, questo appuntamento non è gli appuntamenti tradizionali, è un appuntamento, diciamo, con la scuola, mi fa piacere che possiamo parlarne brevemente. Si tratta di un progetto iniziato a gennaio scorso, tenuto da quattro docenti. Uno è Edoardo Dell'Acqua, che molti di voi conoscono, l'altro è Stefano Gabrini, regista, sceneggiatore, prodotti provenienti dal Centro Sperimentale di Cinematografia. L'altro è Stefano Argentero, che ha curato e curato in questi giorni, in particolare in questi ultimi giorni, la realizzazione di un video di animazione con la sirena, trasformato poi da un software in un'animazione molto corina, che ha coinvolto appunto tutti quanti i ragazzi, che sarà la sigla di apertura della rassegna tutte le sere prima della presentazione del film del giorno. È stato, diciamo, un progetto nato appunto nella condizione di pandemia più acuta e che quindi ci ha messo davanti 17-18 ragazzi assolutamente oberati e appesantiti dal fatto che in DAD realizzavano praticamente tutte le loro iniziative, fossero queste iniziative di studio o anche altri corsi che la scuola fa, e che quindi in qualche maniera sarebbe stupido non dire che questa condizione un po' ha pesato con tutti. Però nella parte finale del progetto, che era, il progetto si chiama Ragazzi di Cinema, con il sostegno del MIBAC, del Ministero dell'Istruzione, realizzato in collaborazione con la scuola Federico Caffè e il CGD, che è il Comitato Genitori Democratici, devo dire che qui abbiamo trovato delle persone veramente squisite, assolutamente appassionate di cinema, che ci hanno favorito in tutti i modi, rendendoci la vita facile appunto nell'organizzazione, le cose che conosci benissimo, pratiche e non solo. È stato un progetto di avvicinamento al cinema per ragazzi tra i 16 e i 17 anni, completamente all'oscuro di quelle che sono le dinamiche, sia che riguardano come realizzare una corretta visione del film, come scrivere una sinossi, come scrivere un comunicato. E siccome ho detto tre docenti, l'ultimo invece sarei io, che mi sono appunto occupato di come si organizza un festival di cinema. È stato un lavoro abbastanza impegnativo, però avvincente, come conosci bene, e quindi per quanto riguarda appunto le scritture, anche appropriandosi di una capacità di sintesi sia nella scrittura dei comunicati sia nella scrittura di sinossi originali, evitando appunto i copia e incolla da altri cadaveri, da altri festival, in qualche maniera l'hanno dotati anche di una struttura, quello della sintesi, che può essere utile a loro anche in presenza di altre questioni. Hanno prodotto solo un sito web, e hanno prodotto ovviamente sotto la nostra supervisione dei manifesti e hanno scelto soprattutto quelli che sono i film. Ora evidentemente i tre film scelti sono tre film mainstream, ovviamente il primo anno di questo corso sarebbe stato assolutamente innaturale sviluppare elementi più approfonditi di conoscenza cinematografica o di visione dei film. Noi ne abbiamo proposti durante i 6 mesi una quarantina, tra questi hanno scelto appunto questi tre titoli che sono Wall-E, In Time e V per Vendetta. Il tema era il futuro, la resilienza, non ovviamente legato a questioni pandemiche, ma insomma in una visione futura di quello che può essere il punto di vista di ragazzi appunto di 16 e 17 anni. Il progetto terminava appunto con l'organizzazione di un'arena dove loro sono assolutamente i protagonisti e questa arena si materializza appunto il 24, il 25 e il 26 giugno in questo spazio interno alla scuola Federico Caffè che si trova in via Pompeiana 111. Tra l'altro chi fosse entrone, chi desidera farci un salto, appunto da giovedì 24 a partire dalle 20:30, sì, i ragazzi presenteranno la rassegna, saranno loro a condurre la presentazione degli ospiti, insomma tutte quelle caratteristiche fondanti, principali che conosci assolutamente bene, che compongono l'organizzazione di un festival, sia nella parte grafica sia nella parte materiale, il montaggio dell'arena, la conoscenza delle apparecchiature per proiettare un film e per ottenere un audio assolutamente all'altezza. Questo abbiamo tenuto questa mattina all'ultimo seminario dove abbiamo simulato appunto la proiezione dell'altra sera e quindi ci avviciniamo a questa chiusura di questo progetto con questi 3 giorni di arena che ci sarà appunto nei giorni che voi indicate. Ovviamente contiamo tutti di rendere questa iniziativa ricorrente e poter quindi continuare un percorso con loro che indipendentemente dal fatto che possa rappresentare un'occupazione o un impegno lavorativo nei prossimi anni gli consente sicuramente di entrare nel mondo del cinema in maniera più presente e sviluppare, come hanno fatto in questi 6 mesi insieme a noi, un amore, una passione, un atteggiamento corretto rispetto alla selezione dei film, sempre legato appunto alla strada generale, all'indicazione generale su quello che è il soggetto che sostiene appunto la rassegna. La rassegna Ragazzi di Cinema, Arena Caffè, all'Istituto Federico Caffè a Roma, dal 24 al 26 giugno 2021. Un saluto e un ringraziamento ad uno dei curatori, Massimo Vattani. Un abbraccio, in bocca al lupo e alla prossima. Anche a te un bocca al lupo per le presentazioni del libro e stai bene. Ciao a tutti. Con Pedro Almocida, direttore artistico, per presentare la 57esima edizione della Mostra del Nuovo Cinema di Pesaro dal 19 al 26 giugno 2021. Pedro, ben trovato. Ciao Federico, buono a tutti. Raccontiamo le specificità di questo festival. Tu sei un nostro affezionato fan che ci segue da tanti anni, quindi tu sei tutto, ma per chi ci ascolta magari anche il fatto che siano 57 edizioni può mettere anche un po' a disagio, no? Perché è un festival super storico che però cerca di stare anche nella contemporaneità e di leggere nuovi linguaggi televisivi, per questo l'idea del festival principale legata al suo stesso nome, che è una peculiarità nostra di cui vado molto fiero, quindi Nuovo Cinema, che quando è nato negli anni 70, nel 65, era legato naturalmente alle nouvelle vague, no? In giro per il mondo del Nuovo Cinema, e oggi noi lo definiamo, rispettando quella tradizione che era sempre legata comunque al linguaggio nuovo del cinema che si proponeva in quegli anni, ecco, questa tradizione la manteniamo attraverso per esempio un concorso di 16 titoli che è aperto a tutti i formati, quindi l'idea è quella di riuscire a dare una mappatura e di fare quello che io penso. Non sono un grande fan dei concorsi, non credo fino in fondo che appunto i film debbano stare in competizione, però esiste questa formula festival che è un concorso, quindi noi la manteniamo, però mi è piaciuta questa apertura per cui noi diamo più un'idea di mostra concorso, no? Da cortometraggi, mediometraggi a lungometraggi, e come sai anche tu bene, in questo periodo storico, per esempio nel mediometraggio, che è un formato che si può vedere praticamente quasi solo ai festival, ecco, in questo formato i registi riescono a lavorare proprio sulla sperimentazione, quindi si vedrà cinema di tutti i tipi, anche proprio rispetto ai formati 35 mm, 16 mm. Quindi ecco, un viaggio all'interno di questi 16 film, 3 sono italiani, gli altri vengono da tutte le parti del mondo, però sempre all'insegna di un cinema legato all'idea di sperimentazione. Sono previsti incontri con autori e autrici? Sì, con le regole di difficoltà dei viaggi di questi ultimi 2 anni, invitiamo direttamente meno registi stranieri per motivi che sappiamo tutti, però cerchiamo di utilizzare la tecnologia in funzione positiva, per cui rispetto anche agli altri anni in cui avevamo tanti registi che venivano a Pesaro e li incontravamo, dall'anno scorso li incontriamo tutti perché ci colleghiamo con loro online, quindi questa dimensione ci aiuta anche ad approfondire i film con tutti quanti i registi, mentre magari gli altri anni se uno veniva bene, se un altro non veniva non si parlava di quel film, quindi ecco, democraticamente la rete ci aiuta in questo, però poi c'è tutta una parte legata anche alla sezione che è più verso il pubblico, che questo cinema che chiamiamo Cinema in Piazza, che è nella piazza principale di Pesaro, in cui ogni sera effettivamente poi ci sarà il film accompagnato da un evento, da un incontro. Adesso, per dire, inizio festival, noi da qualche anno inauguriamo con un film hollywoodiano d'autore che in quegli anni a Pesaro non sarebbe stato proiettato perché appunto il cinema americano veniva identificato come un po' il nemico del cinema imperialista. Sono passati tanti anni, ecco, 40 anni dopo Il Predatore dell'Arca Perduta, il primo film della saga di Indiana Jones di Steven Spielberg, viene al festival e lo presenterà un altro grande fan, oltre a me, di Steven Spielberg, che è Gabriele Mainetti, regista di Chiamiamo Gigi Robot e di Freaks Out, che uscirà in autunno. E da qui in poi, domenica 20 giugno, ci sarà il concerto di Naip, l'artista di rivelazione di X Factor, che sonorizzerà dei film dell'avanguardia degli anni 20, e poi il film del cuore di Paolo Mereghetti, che verrà a presentare Midnight in Paris di Woody Allen, e poi Terra dei Tasti, il film del cuore con la messa in finita di Nanni Moretti, che si collegherà con noi, e così via tutte le sere fino al gran finale con l'evento speciale dedicato a Liliana Cavani, che presenterà qui a Pesaro in anteprima mondiale il restauro del suo film Al di là del bene e del male, restaurato dalla Cineteca Nazionale con il Cinecittà Luce. Tutti i riferimenti internet per seguire la programmazione? Principalmente www.pesarofilmfest.it e tutti i social che hanno come destinenza, diciamo, Pesaro Film Fest. Se vogliamo, come dire, concludere anche con 2 novità che ho cercato di inserire all'interno del festival, su un festival storico che non si era mai rivolto a un pubblico, per esempio, dei più piccoli. Ci sarà un festival nel festival, curato da Giulietta Fara, che è la direttrice del Circuito Film Festival di Bologna, che si chiama Pesaro Film Festival Circus. Dico festival e festival perché sono 5 giornate con proiezioni di film di animazione in anteprima italiana e con laboratori e workshop per i più piccoli, con autori molto importanti come Michele Bernardi, che ha realizzato anche il manifesto e che appunto lavorerà sull'animazione con i più piccoli. E poi la musica, un altro delle mie passioni, i videoclip. Anche su questo abbiamo fatto ogni tanto dei focus, ma quest'anno abbiamo scelto con Luca Pacilio di Film TV 20 videoclip che vengono votati sulla pagina Instagram del Pesaro Film Fest. Ne sono stati selezionati 6 che proiettiamo tutte le sere in piazza. Anche questo è un modo per far vedere anche un audiovisivo in maniera totalmente inedita, che è appunto su un grande schermo, per poi scoprire sabato finale quale sarà il video più amato dal pubblico. 57esima mostra del nuovo cinema di Pesaro dal 19 al 26 giugno 2021. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Pedro Armocina. Un in bocca al lupo e a presto. Grazie a te, crepi il lupo. Ciao a tutti. Con Mario Sesti per presentare l'ottava edizione di Cinema al Maxi dal 25 maggio al 21 luglio 2021. Mario, ben trovato. Grazie Federico, eccoci di nuovo finalmente. Con la riapertura quindi cambiano un po' le condizioni, raccontiamo questa ottava edizione.